oppure lui ritorna con la geometria zero. Sì, io quando l'ho preso ho guardato quella, c'era un Costa Rico che c'era lì come assicuratore e lei dove ci aveva avuto incidente, non aveva avuto manco un graffio. E sono andato, l'ho visto, l'ho provato e andava bene. E l'ho preso là, l'ho pagato a 7.000 euro. E vabbè, di che anno è? 2005. Invece ce n'era una Opel familiare, lo stesso del 2005, e ne volevano 13.000 euro. Sempre nel 2005. Allora? Vabbè, magari solo che ha fatto un affare con questa macchina. Sì, sì, no, ha fatto un affare sì. L'assicurazione è molto paghi lì, sabato. Allora, nella tua macchina che avevo ho pagato 468 euro ogni 10 mesi, invece pago 600 euro male, e più c'hai il cazzo di traino assicurato, me lo devo piazzare, là. Ho preso i cazzo di traino. Se lo stai risparmiando allora, annuale, invece quella ogni 6 mesi pagavo 468 euro. Già stai risparmiando 200 euro, va, circa. Allora? No, non è che c'è la truffa, oh yeah. Ma è un casino, oh yeah, yeah. No. Vabbè. Ma io devo mangiare, dai, aspetta un attimo, devo mangiare il Popperman. Buona cena. Sì, è lavoro domani. Che la faccio? Io mi Sena da dove sei andato. Thank you. Io sono amato, l'ho ottenuta, e non era come adesso. adesso, credete che non era come adesso. No, la volta prima, lo so, tu non era come adesso, era ancora più difficile. Però o ci vai per tra voi, o se ci vai così, e tenti la fortuna, non ce l'avrai mai. Devi andare, no? Quello che hai preso la patente per la banca, si è andato per la presa, ok? Perché hai studiato, si è andato per le allora immagina che te prendi la patente della macchina, devi fare la stessa cosa, devi studiare e andarci preparato. Lo so, però purtroppo è talmente vasto l'argomento dell'elettronica, se ti capitano quello che hai studiato, le so, se ti capita una domanda come l'ultima volta, cose che non sapevo neanche, non avevo mai letto, ti butti. Comunque anche che c'era Domenico. Domenico, avanti! No, che ti dato la FM, no? Non lo sento più, è troppo forte questo che sta parlando. Avanti, Luca! Iaia! Allora, no, vedo, non lo sento più io, sentivo basso da prima anche. Ah, no, ma sei pronto per dare l'esame? Questa volta spero di rifaccia, dai. Magari, non lo so, adesso in questo momento, se vado con questa preparazione, ne so comunque un quarto di tanti esami dell'altra volta, proprio, vero, avevo tutto da studiare da capo. Mi sono dimenticato un sacco di roba, almeno l'elettronica, la normativa è quella già adesso, già non c'è da sbagliare, ma l'elettronica c'è troppa roba. Vabbè dai, se no monopolizziamo, cambiamo argomento, cosa volevo dire? Novità Claudio, niente, cosa è successo in questi giorni? Nulla, mi ho preso la bronchite. Domani sarà molto buona, non fumo più, farò un'antenna, saranno via la tosse. I bronchi, i polmoni, di tutto, grazie per un piede. E niente, si lavora. Oggi vi ho fatto tutto continuato, abbiamo parlato a Porto Torres. A Porto Torres, perché non sono entrato anche a pranzo. Nulla. No, mi stavo mettendo a posto un po' in radio. Cambiando, no, come spostando, facendo, insomma, cambiando, sempre le stesse cose, sono delle cose che non mi piacciono, però le cambi e non mi piacciono lo stesso. Vabbè, se non mi fa l'altra scrivania, Giulio, sono troppo intasato, non mi piace, le radio sono troppo, sono tante, sono troppo tutte attaccate. Io sai cosa ho fatto? Mi sono fatto, io avevo delle, come si chiama, dei ripiani di una libreria, sono tutti uguali, di diverse misure, ce l'ho da un metro e anche più piccoli, tutti uguali. Mi ho comprato quei piedini scatolari, ce l'hai presente, quelli che devi abitare sotto, e me l'ho fatto a ripiani. Tutto a misura di come ci ho messo io, ho tre ripiani. Guarda, ne posso mettere anche un altro sopra, ho tutta la radio incassata dentro. Uno spettacolo, è uscito benissimo. Beh, c'è la mia così. Anche Maria è così, anche io c'ho il piano, c'è una scrivania che ha fatto Giulia, un piano, non una scrivania, è un piano proprio, un piano, non c'è niente, puoi camminarci sotto tranquillamente perché non c'è nessun impedimento, né fili né nulla, poi c'è un piano, poi c'è il secondo piano, vorrei vederle un po' più spostate, capito? Come avevo fatto l'altra volta, non lo so, vabbè, si cogiterò qualche cosa, farò qualcosa, vediamo, avanti Luca. Ehi, però piano dai, piano, no, io, per il carattere mio non ci riuscirei mai a fare una cosa del genere, manca balla. L'ho visto, come si chiama, i compiti di Franco, mamma mia, no, è roba per meno. Franco ci ha rinunciato ad andarci. No, non so se ha continuato, boh. Io ho visto i compiti che ha fatto, madonna, santa. Non lo so, purtroppo l'elettronica è vastissimo l'argomento, perché uno dice ci sono mille domande, mi studio tutte le mille domande e lì tra la tesi, ma purtroppo tu magari stai studiando mille domande e di quelle mille non ve ne manca una, come capita, perché ne ho fatto, non dico 2000 3000, ma ne avevo fatto la manco 1500 di test, di questo uno diverso all'altro, pochissime me ne sono capitate di quelle che ho studiato io. Dicono che è più difficile averla fatta per la macchina, dicono. È vero. Luca, se tu hai studiato e ti chiedono quello che hai studiato, tutto è facile. Almeno tutto quello che ho fatto io, patente aeronautica, patente della macchina e altre cose, di altri tipi di genere di patentini, studiamo l'argomento, andavo, se sei pronto lo usare, se no, non sei pronto. Però il problema qua, io avevo studiato, mi sono capitate cose che non c'erano nei libri che ho studiato io, domande, cose sconosciute. Vabbè, diciamo che è una parte già è bello, dai, perché puoi navigare in altre frequenze, puoi fare delle chiacchiere, diciamo, seduti in poltrona, ecco. Ma una parte non è indietabilizzato, perlomeno. Secondo me, poi, a me va, piace parlare di VHF, di V, quello sì, però il resto stai lì con altre frequenze di 10 metri, le altre frequenze che usano non attirano, la verità. Vabbè, dipende tutto, anche io non è che sia un grandissimo appassionato delle onde, diciamo, delle parti più basse delle frequenze, 80 metri, 60 metri, eccetera eccetera. Mi piace più, come hai detto tu, magari sulle V è più, però molte volte trovo degli argomenti interessanti. Mi è piaciuto questa primavera, ho fatto un collegamento con questi radioamatori sulla 27, non meno di un'ottantina di persone, mi ho scritto tutti i nomi, mi chiamavano da tutta l'Italia, forse non so per quale motivo, poi era la prima volta che collegavano la Sardegna, Sassari, guarda, uno mi ha fatto i complimenti tutti quanti, perché ero io il caporuota, ho da tutte le parti, non faccio niente a attaccare uno, aspetta un attimo, c'è l'altra, una cosa spaventa, proprio è stato un abbraccio di... ed ero sulla 27, non ero, erano quasi tutti i radioamatori, ma dalla ma come ho detto su internet, lo sta facendo Luca, e c'è anche la 27, è vero, ma ci devo scrivere per cercarla, c'è praticamente questa radio, tu trasmetti con questa radio. Sì, ma no, non lo so fare io, c'è gente che lo fa, e cioè mi entra, come si chiama questi qua, se tu vuoi entrare su internet, cerca disturbatori di Faenza, non di Faenza, di Bologna, una cosa del genere, c'era questa tipa che avevo parlato, mentre entra nel sito, ci siamo noi, eccetera, eccetera. Disturbatori di Bologna, cerca. Io ho fatto, c'era questo tipo che stava facendo l'attivazione di quest'isola, infatti lo voglio chiedere a Marco, esattamente si chiama, Isola di Mustia, in provincia di Trapani, ha fatto l'attivazione questo signore qua, mi ha detto mandami la QSL, mi ha dato tutte le indicazioni, poi ho detto la sapete. Fiscia CB di Maria Lurico, da 27 ore, 11 metri. Aspetta. No. Allora, errori CB. Errori CB 2010, vediamo. La marca Airbus, non so qua è un coso. Un microchip, ci stanno un minore di memoria. Bovina caprina. Ma sono gli errori che dicono a 27. Ah no, quello non l'ho visto. Ma cosa ancora si fa? Sono curioso. Aiuto, racconta. E cosa racconta? Ascoltando stavo io. Poco a raccontarci. Io neanche me lo fa, mi ha chiamato il presidente per alcune cose che dobbiamo fare e mi sembra la stessa cosa, ti sentiamo nella 27, non ti sentiamo in VHF, in HF, in HF, non mi interessa niente, io l'ho fatto nel 1993 questo passo, non perché mi piace andare a stare 40 metri, 20 metri, 80 metri, 10 metri, non è funzionato, io ho fatto per detenere tutto quello che può essere radio, tutto, con la detenzione, basta. Capito? Ma nessuno mi rompeva le palle, perché io c'avevo sempre scuola sotto casa. Solo per quello ho fatto io. Perché ho detto, no, me la funziona, quando ne voglia, entro, quando non ho voglia, tutte le radio sono spente, comprese le V e le U. E c'è il 430 e 440 acceso, basta. E anche io il primo motivo è quello lì, poi anche per soddisfazione personale, poi se c'è tempo, magari poi la Puglia ti viene, non è detto. Sì, per carità, c'è sempre qualcuno che parla, da un altro che conosco, ciao, entra, tutto ok, a posto, mi bomba, perché vuoi fare un attimo ce l'ho, quindi no. Non è che entrare io a chiamare a cercare le persone, come fanno, cioè, no, me ne frega niente a me. Non mi piace a me fare, capito? A quelli belli non mi interessa. Io l'ho fatto perché mi piace la radio e per avere tutte le radio, per averle, per detenerle ci vuole la patente. Quindi io l'ho fatto solo per quello. Perché nessuno mi potesse dare fastidio, capito? E così ho fatto. E così ho fatto. Perché lo fai anche tu, lo fanno anche gli altri. Però se ti capita e come vai in quella frequenza, ok. Adesso parliamo molto 50 mega, ho capito, i 6 metri. A 50-150, 50-130, una frequenza come può essere i 10 metri, dove puoi insomma un po' scaffiare, un po' fare. Ma non c'è nessuno neanche lì. Ce l'hanno assegnata 5 anni fa con la frequenza, non c'è mai nessuno. Mai nessuno. Sono tutti lì, esatto, in questo V, questo U. In questi monti, in 10 metri, fai un po' i 6 metri, fai andare un po' tutte le bande. Ognuno fa quello che vuole, io faccio quello che mi aggrada. Io parlo 27, non me la futti una mai dell'altra. E mai ho visto che non c'è nessuno, c'è poca gente, radioamatori si portano sulle punte delle dita quelli che fanno attività, sono proprio pochi, pochi, gente che per dire è anziana, che sta in casa, ma diciamo quelli più giovani. Buscemi se lo mettono in macchina magari quando si spostano, ma ne sento pochi e niente. Beh, tu adesso mi hai detto questo dei 10 metri. Se tu accesi non venisci uno. C'è nessuno, già lo so. Già lo so, non si mette a serra, a parte non va. Ho il telefono con la mia. Ho detto di chi stai parlando, con il direttore della mamma, ha detto, vabbè. E poi dillo a... A me da sì, non va a ricordarsi un toccare per parlare al 27. Ma questo infatti non capisco, almeno tu forse sei uno dei pochissimi, per non dire l'unico, che ha ancora la cosa di entrare nel 27. Qualche altro sembra che sia, come si chiama, una cosa, un disprezzo entrare a parlare con la 27, c'è un senso di inferiorità, qualche radioamatore. Infatti quello io non ho mai capito, perché cacchio, tu diventi radioamatore e di quello ti dimentichi di tutti gli amici, le persone che hai parlato sino a un mese fa nella 27, perché io conosco gente che prima ci parlava con la 27 e poi è diventato radioamatore e non si è più inteso, non l'ho più sentito dal momento è diventato radioamatore e quello non è bello secondo me. Quindi c'è capito di stai parlando, è proprio uno di quelli che non mi ha criticato, quindi proprio in una riunione in sezione, proprio lui, e lui mi ha ricordato determinate cose e quindi ha abbassato un po' la testa. Io dico questo, la volontà vuol dire avere il massimo della licenza di telecomunicazione. È come uno ha la patente per guidare il treno, capite? Quindi dalla moto si va a guidare il treno, no? E basta. Se poi mi voglio fare un giro in bicicletta, anche se ho la patente per guidare il treno, non faccio lo stesso. Perché sono appassionato alla bicicletta, mi piace pedalare. E quindi mi faccio un giro in bicicletta, perché tu mi devi criticare, mi dire, ma tanto non vedi lì, però sei sempre lì, io faccio radio e vado io. Non è che se la rivoltore bisogna fare radio per forza in 2 metri, in 50 centimetri, in 6 metri, e vale vario. Fate radio, stai sempre facendo radio, stai sempre parlando alla radio. E poi è una passione che io ho da ragazzino, quindi non me ne frega niente. Una cosa certa è che, a differenza degli altri, puoi usare qualsiasi tipo di radio e parlare in qualsiasi tipo di frequenza. Sei tutto lì. Non cambia niente. Non cambia niente, capito? Quindi. No, beh, ognuno di oggi io comunque a me di quello che dico gli altri non me ne frega niente. Io sono animatore e faccio l'animatore del CB. Si può parlare anche la concessione per il CB. Non vedo oggi per cui non devo entrare, se qualcuno non vuole. Sì, no, ma a parte quello, diciamo, ognuno è libero di scegliere la frequenza che vuole lui. Però questo senso di superiorità a me che non mi piace, perché io ne conosco degli amatori diversi, ci sono delle persone un po' pompate, diciamo, alla stessa rete, e persone che sono rimaste tranquille, umide e ragionevoli. Poi gli giochisti ci sono tutti pompati, perché se ti diventa per l'adiamatore tu sei superiore a me, e magari se un incompetente non sa manco cosa vuol dire essere l'adiamatore, solo perché c'è la patente e gli consentono di utilizzare certe frequenze. Però magari gli fai un argomento tecnico, inizia a fare qualche argomento di antenne di altre cose, non sanno manco la gamba di girarsi. E ci sono dei CB che questi tipi di informazioni magari te le danno più di altri radioamatori che non hanno nessuna conoscenza. Poi si conosce più, è così. È così, è così. Vabbè. Io sono fatto quello io purtroppo, vabbè. Non ho mai ascoltato quello che mi dicono gli altri. Io lavoro con la mia testa, ripeto, faccio radio dal 1973, quindi non ho nessun problema. Nel 93 mi ho preso la patente radiomotore perché sono stato costretto a prenderla, quindi ci sono andato molto pesante, proprio con la voglia di prenderla e con la grinta di prenderla, perché mi serviva, perché se io rivenivo a casa mia e non avevo i documenti in regola mi arrestavano veramente, perché ti faccio le fotografie proprio dove sono seduto io, non adesso, qua, questa è un'altra stanza, ma di su, che tu hai conosciuto, e ti posso dire che mi hanno fatto due frisciate che alla testa non mai, e vogliamo ci portiamo via tutto. Perciò mi hanno voluto bene, perché la verità un po' di corsi ce li ho ancora e ce li avevo anche prima. Perciò non ho dovuto prendere per forza. Io non ho mai usato baracchini, proprio mai. Io ho sempre usato il 430, che era uno di usciti, che era appena uscito, 757, va bene, quello che era appena uscito mi piaceva a me. Poi avevo 757 GX2, ma GX2 sono passato anche io. E sempre ho avuto radio di questa maniera, ho vinto anni di pirata, VHF, portatili, male, polvere, di tutto avevo io, di tutto, da là a Z, sono 7CB. Quindi siccome qualcuno parlava troppo, allora erano venuti a controllarmi e la prima volta mi hanno detto praticamente è andata male, perché non mi sono fatto provare. È uscito da altre vie. La seconda volta mi hanno praticamente, hanno scritto, hanno fatto verbale di controllo, dove mi hanno messo la fretta la terza volta, solo perché c'era una persona che oggi, sai chi sto parlando, nel mio gruppo, mi ha detto mai, e dimostra veramente che sono appassionato di radio e che quindi puoi ottenere tutto ciò, o se no al quarto controllo che facciamo portiamo via tutto. E quelle parole mi sono servite, perché mi sono servite, praticamente ha detto se veramente sei un appassionato di radio, quindi siccome io non sono appassionato di radio, amo lui, io non lo so, per una soddisfazione personale, come hai detto tu, ci sono andato, ma ci sono andato molto pesante, io studiavo giorno e notte, sempre prima mi portavo la chiara roba a studiare lavoro, e ti posso dire, Walter e Marco sono presenti, glielo puoi dire quando vuoi, io sono arrivato da Pistoia alle 7 del mattino con la nave, alle 7 del mattino con la nave, perché io avevo una vita di autotrasporti allora, e avevo del lavoro in continente e non potevo farne a meno, quindi sono salito anche io. Sono andato alle 7 a Porto Torres, alle 7:30 mi sono lavato la faccia, è passato il torrenale a prendermi e sono andato a Cagliari agli esami. Figurati. Questo c'è Luca, avanti Luca, ci sei. Luca mi sa che si è allontanato. No, la passione, io ce l'ho, diciamo, diciamo da bambino, da ragazzino, purtroppo l'ho coltivata alla grande, nel senso è stata nel CB da 2004, mi sembra, 4, siete stati voi a coinvolgere, per sbaglio una volta mi ha risolto Luca, poi piano piano mi sono allargato, già lo sai tu là come è andata a finire, però Marin si è un po' attenuata rispetto all'inizio, però ce l'ho sempre nel sangue, mi è sempre piaciuto. Purtroppo è stata una delusione molto grande quella che ho preso l'ultima sessione d'esame, me l'aspettavo, io ho detto 50% di possibilità ciò, e infatti è stata così. Purtroppo avevo voluto sapere il discorso delle risposte, cioè cos'è che mi ha fatto perdere la patente, qual è la domanda che ho sbagliato. Lì purtroppo devi chiedere la tua cosa perché non ti danno nessun esito, roba. Sono l'interessato, capito? Sono l'interessato, devi telefonare con il numero del protocollo che avevi, dici vuole sapere o darti una copia del compito, non so, farti sapere dove, praticamente ti sei già fatto. Mamma mia, e niente, è così. Comunque io mi ricordo ancora oggi, ho fatto un grande sacrificio e fortunatamente, perché io l'ho dato due volte, ho dato prima e fatto due diplomi, uno è quello più 0 URT e l'altro IS0 di FB, sempre sezione ARI, cioè associazione animatori italiani, associazione animatori italiani. E quando io ho dato l'esame, perché erano due patenti, la speciale e l'ordinaria, quando io ho dato la prima, la speciale, per poi attendere che mi chiamassero per l'ordinaria, perché avevo presentato i documenti assieme, fortunatamente mi sono accorto che ci sono accorti loro, non io, perché io sinceramente non me ne avrei accorto, perché ti chiedono nulla vostra militare, tutto, allora ti chiedevamo tutto, adesso non ti chiedono un cazzo. E fuori da Perana, vale varie. E nulla vostra militare c'era scritto una telegrafista la vai in seconda classe. Infatti io l'ho imbarcato su Vittorio Veneto e mi sono congiurato la Maddalena come radio telegrafista. Quindi caporale maggiore in seconda classe radio telegrafista. Quello mi è valso molto perché mi hanno esonerato dall'esame di telegrafia e mi hanno dato nominativo IS2 senza conseguire l'esame, però il primo l'avevo già fatto. Ah, va bene così allora. E rimane, ma tu hai fatto anche, sei andato a scuola, nel senso in qualche associazione, ti sei fatto aiutare da qualcuno o privatista? Sassari mi pare commissariata quando nel 93 io, cioè nel 92 avevo già iniziato a frequentare i corsi dell'associazione, quindi andavamo a Porto Torres, andavamo io, Gianni Lovessone, Marco 131, tutti ci andavamo a Walter Torre, la buona Gambino Passero, tutti quelli che oggi sono radioamatori che non entrano più, insomma, perché Gavino Volano, quando è diventato radioamatore, entrava a parlare con il compare, intanto si nascondeva dietro nominativo quando lo riconoscevi, ma a me non mi frega niente. Io Claudio Spagliero sono nella 27, IS0 di FB, sono come radioamatore, non niente a nascondere, non devo niente a nessuno. Le concessioni sono a posto, perciò che cazzo me ne frega di stare lì a nascondermi dietro il microfono, non me ne frega niente, invece molta gente mentre tu si nasconde. E comunque noi andavamo a Polo Torre e ci faceva lezione Gabriele, un animatore, ma allora in quei tempi più che di valore non si parlava, noi eravamo in dotate, balle varie, circuiti di alimentazione, la parte radiante dell'antenna, la parte degli oscillatori, quelle le cose che in linea di massima erano tutte scritte nei libri. E basta, ci si preparava così, tanto è vero che l'esame che ho dato io, me lo ricordo come oggi, e la busta l'ho aperta io, perché ti chiamo, ti vuole aprire per prima fila, non te lo vai. scrive il commissario, il presidente commissario scrive alla lavagna, non era qui, erano tre lavagne, ma dovevi fare il compito per lo scritto. Il primo era come si costruiva un, quali erano i componenti per costruire una reazione stabilizzata da 40 ampere, e quindi ti dovevi fare tutta la frazione per calcolarti tutti i componenti che ci andavano, ma non varie. E poi c'era l'irradiazione di un'antenna, poi un oscillatore di frequenza bassa banda, boom, basta, finito. Questo era il compito che è capitato a me nel 1993. Ma una domanda ti faccio, ma hai detto Morani ma passo, perché è morto? Dico, mi passo, è morto 3 mesi fa, neanche. Avevo sentito, stava male, mi dispiace. Era una cosa, compare di Gio Maria o qualcosa del genere? Sì. Mi dispiace perché quello lì, qualche volta ci siamo sentiti in 27, o dove ho sentito che non stava tanto bene, ma era anziano come tra quest'uomo. Insomma, io ho avuto a che fare l'anno prima, abbiamo fatto l'ultimo rally assieme, dove sì, era un pochettino acciaccato, era in cura per determinate cose, ma al diabete sono subentrate altre cose, quindi non ce l'ha fatta. È morto anche a quella solitaria, sempre radioamatore, grandissimo tecnico della sua era, Porto Torres, sempre a Porto Torres, mi pare molto il mese scorso, o 2 mesi fa, non mi ricordo. Giuseppe Alvara, IS0, Yankee, Fox, non mi ricordo, Alfa Yankee Fox, non mi ricordo il nome attivo. Comunque c'è una rivista Ari, deceduti di associazioni Ari. Quindi per diritto c'è una pagina esclusiva dove mettono come il giornale, come le croci, anche la nostra rivista Ari, quella che esce mensilmente, ha una pagina dove mette i necrologi dei radioattori, che sono molti, ci sono le foto anche. Sì, abbiamo visto qua, anche Coso, l'altro era un grandissimo tecnico, quello che era molto specialista negli amplificatori, come si chiama, Vinci, quello buffo triste, lui sì. Gianni, grandissimo allenatore. Grande allenatore, grande di XC, faceva molti attacchi con Marco, mi ricordo. Preparatissimo soprattutto in telecomunicazioni, audio-video, non ce n'era per nessuno. Bravissima persona, l'ho frequentato un poco la ignorante, via comunque. Quello fa parte anche del gioco. Come diceva Marco, l'unica difesa è l'attacco, quindi è chiaro che ognuno si difende come può. Però bravissima persona. Ci ne sono molti tanti, oddio, non tanti comunque. Radioattori patentati quest'anno ne sono spariti parecchi. Ma comunque. Oh vabbè, tu. Cosa Giovanni non l'hai più visto, quindi a IS0 Tullalà? Sì, le mattine in officina, ma lo sto rifiutando per darmi una cosa, mi è passato stamattina perché le avevo chiesto delle cose, delle napolopoline, mi serviva, non c'erano neanche e me le ha portate. Allora adesso siamo in buoni rapporti. Io mi sto rifiutando perché lui ha l'MT3000, solo gli ho detto se ti busco un'antenna, perché lui te la sta accordando, lo usa per accordare la mantova con l'apparecchio lì. E se già riesco a buscarti un'antenna, così almeno me lo dai a me l'MT3000. Io ce l'ho nelle L'MN2000, sempre della Magnum, quello che c'è lui è l'MT3000, sempre della Magnum, va molto bene, anche quello che c'è io va molto bene, non c'è problema. Qua stavo dicendo, ehi, la Magnum che c'è lui, il 7008, quello della IAS, l'ho fatto io. Ah, è il tuo, adesso dice se gli ha perso le memorie e le hanno toccato, no, siccome è sempre Ducchetti, allora è una bravissima persona squisita, nel senso se gli chiedi qualcosa si tronca il collo, molto disordinato, che quello non ce n'è per nessuno per il disordine, però se gli chiedi qualcosa che ti può dare gli altri aiuta, però è di quelle persone che non è cose nuove, è cose della tecnologia nuova, lui ha visto a quelli a valvole che dovevi accordare, tutti quegli apparati lì a valvole, quando trova questi nuovi tecnica digitale si trova a disagio, infatti mi ha detto l'altra volta è venuto in officina e ho sistemato io qualcosa, non è che ne capisca molto neanche io di questi nuovi, però per tentativi sono entrato nel menu e l'ho messo in ordine, adesso dice mi l'ho di nuovo toccato, che grande ne rimane, non tocca più nulla. Io praticamente se ti viene ho parlato un po' particolare, no? Che non so se te ne sei accorto, per inserire lo shift, per inserire il duplex, simplex, per andare con un flash memory, devi tutto andare nel menu. Devi tutto fare prima il passaggio al menu, spostarti dal WFA al WFOB e poi fare tutta la sintesi che fa parte della praticità, chiamiamola così, cioè di quella manuale. E io gli ho fatto vedere, hai capito, gli ho detto, sì, no, chi è, lui, ma non vedere nulla, no, oh, ma 2 minuti, impostato, fatto, a posto. A me ne sono mica grande, lo vado in nuovo, ma quando ho chiuso che di nuovo qua. Già lo so, certe volte mi ha telefonato di notte, poi è uno di quelli che non si muove i problemi, se ti chiama a Londra di notte non è che si preoccupa che tu stai dormendo, c'è il bambino, c'è qua, dille, ah, vabbè, ma guarda, mi è capitato questo, sto provando questa cosa, via, accendi la cazzo, non lo rispondo mai, perché è una persona grande, però molte volte è un po' così, è un pittore famoso, non so se lo conosci tu. Cosa vuoi? benissimo. Le ultime ce le ho ancora, di cui uno ho regalato a Franco California, che è un 101 digital molto bello, sempre base valore. Ma stavo dicendo, tra Marco e Walter chi si è preso prima la patente? Walter prima? Sì. Ma avessi detto, pensavo il contrario, perché Walter, diciamo, lo conosco sì come nome, però dico, come fama era più conosciuto cosa, l'altra persona che abbiamo nominato? Sì, ma erano tutti lì, capito? Erano tutti lì. E io sono andato 3-4 anni dopo, io non ti credo che... Perché quando erano già lavoratori, io parlavo... Fu in banda, quindi facevo il pirata scena loro, perciò lascia perdere. E adesso ce ne sono ancora adesso di pirati, dai, non facciamo nulla, ma già si sa chi sono. No, ma a quei livelli adesso non mi piace più, adesso non mi va perché c'era, quindi non voglio perderla, ma chi fa queste cose consapevole a cosa va incontro, quindi sono problemi suoi, a me non mi interessa. No, quelli non c'hanno niente, capito? Non hanno niente, sono pirati e pirati rimangono. Io se sono arrivato non posso andare a fare il pirata, se ci basta, me ne prendo la patente, perché devo prendere la patente con tutti i sacrifici che ho fatto, perché cosa? Per andare a parlare fuori banda, no, non ci vado io a parlare fuori banda. Rimango nelle linee, ma non me ne frega niente, ma di quello lo fanno gli altri, non stai scherzando. Un altro discorso, poi c'è, mi avevano detto, che non me la ricordo, una frequenza dove vanno, mi sembra sia intorno ai 7000 spiccioli, adesso non vorrei dire, e lì vanno tutti quanti a dire, tipo la banda, tipo la 27, adesso non mi ricordo che frequenza è quella lì, che diciamo, non dico che è consentita, nel senso che non è né radio amatoriale né di nessuno, una frequenza vuota che la volevano dare, si dice, ai coso, ai CB. Consentire di utilizzare qua la frequenza, adesso non mi ricordo che cos'era, c'era i 3000 spiccioli o 7000 spiccioli? 3000 spiccioli non può essere, perché baracchini che arrivano a 3000 spiccioli non ce l'ha, 7000 spiccioli non ce l'ha, sono a KF, perché 7000 sono i 40 metri e 3000 sono gli 80 metri, c'è una frequenza intermedia dove, vabbè, i 45 appunto che sono a 6.008, quindi tra i 6 e 7.000 è quella degli 80 metri, che poi sono gli 85 metri che sono a 4.000 rotti, quindi fra i 3.000 e i 4.000, quelle sono frequenze intermedie, ma che baracchini non arrivano, quindi io non ho la caffè per parlare e basta, però sono sempre frequenza materiale che poi uno scivola, va giù o va su e diventa 45 metri, 85 metri. No, non dico col baracchino, con l'apparato specifico, con la carne. No, ma l'hanno fatto sentire tempo fa, sono un annetto fa, dove ci andavano tutti qua, dice, è una frequenza dove non vanno i radioamatori, però li utilizzano tutti i timbiratoni e la utilizzano a modo di 27, nel senso che se ne dicono tutti i colori, perché chiedo che manda la musica, chiedo che dice le parolacce, quello che fa il Ruti, una frequenza sporca, diciamo, nel senso a KF, però dove ci vanno, è una via di mezzo tra le frequenze operative dei radioamatori e una frequenza chiusa che non c'è niente, adesso non mi ricordo se era intorno ai 7000 o intorno ai 6000, ma non me ne ammetto. 6860, 6670, quello è una lontana di maggio, non mi ricordo, 5 metri. Ma quella è inutilizzata, cioè non è una banda radioamatoriale? No, quella non è una banda intermedia, è una banda intermedia, capito? Che è in mezzo tra i 40 e 40 metri, però la chiamano 45 metri perché proprio sono stata leggermente sotto, capito? E lì ci sono tutti i lavoratori che però entrano, perché entrare con la sigla IS0 entrano come IS0 Claudio, IS0 Roberto, IS0 Peppino e così via, capito? E quindi sono tutti i lavoratori che al momento che si tappa. Allora, vediamo se nel frattempo è entrato qualcuno. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare, con la buonasera avanti. Se c'è la parte, ho detto, va, fammi la voce. Ma non ce la ci sentiamo dopo, boh. Però la mia radio c'è pure oggi. Ma lo so, devo dire, allora, mi sento male. Sono radio, ho mangiato. Mi gioco due mesi, la Gabriella pure, sono qua. Vabbè, infatti l'ho visto, è passato il motorino verso le 5 e mezza, se non fatto l'ho visto, ma ha suonato con quel motorino che c'ha lui. Ma non ha macchina parchetta. Ma non è di macchina parchetta, sempre in moto lui, ecco. Non ho due macchine, c'ho la Opel appunto. Ci ho ascoltato la cosa, la ciclatina, la Opel, non lo usando per lavorare. E quindi la sto usando il suo, mi compare la Opel, lui viaggia in moto adesso, fino a quando può viaggiare, poi se la prende lui, capito? Tra l'altro sono la marmitta da poco, ho comprato la marmitta e alcuni pezzi che ne servivano. Chi non ho più sentito invece da parecchio di Giulio in radio, proprio va bene, forse questa primavera mi pare di averlo sentito. Allora Giulio siamo visti e sentiti al telefono. È impegnatissimo, sta terminando un lavoro molto importante che a me l'hanno bloccato per questioni di Eros, quindi dice qua non vino prima che fino ritorno di là e mi rimane lì la roba al magazzino. Sta facendo una cucina con pulita che è una cosa spettacolare, molto bella, grandissima tra l'altro, e quindi la sta finendo, sta lavorando con lì per finirla perché deve prendere i soldi, tutto lì. Tutto lì, capito? Una volta che si è riparato di questo lavoro, allora mi ha detto grazie, guarda qui, perché ha anticipato un sacco di soldi per il materiale, il lavoro l'ha iniziato, poi li hanno bloccato perché i soldi non c'erano più e quindi era un po' preoccupato. Adesso che ci sono i soldi, sta avanzando per finirla, consegnare, e lascia tutto, dice no, ma vieni, bruciali, e rimani in sagudina, si è attaccato in torre. Che era sotto un lavoro maledetto, cacca, non è come dire con lui, col lavoro mio, tu mi dai la macchina, se non mi va che mi tengo la macchina, lì una volta che fa il pezzo, e dice non ho più soldi, cosa li fai? Allora di non serci. Infatti quando mi ha fatto questi lavori a me, aveva tutta questa roba per la più retro, ma è tua, mi usci. E adesso aspetto, mi hanno detto di aspettare, però ci sono i soldi, la continuiamo. E infatti così è, e sta finendo, la sta finendo. Credo che debba dare la seconda mano di vernice e poi portarla via la riga motocarro piano piano e altri parte con la pressa allora piazzarla. Incascia la riga e via. E via. E poi mi deve farmi questo piano, perché tanto deve lavorare materiale tipo questo. Di andare a fare eccetera, perché deve fare una veranda a 7 metri, mi pare 7 metri e 50, tutto il legno. Lo so, un bravo operaio, una vita che fa quel lavoro, poi lo fa con passione, quando tu le cose lo fai con passione vengono sempre meglio, dai, l'ho visto tutto quello che fa, non so, vabbè, l'avrai visto anche tu, sarà una fesseria, ma con il lavoro che ha fatto per fare quel microfono, l'hai visto sul tanner che aveva fatto il legno? Io l'ho visto, vabbè, ma io ho visto tutti i nell'attalino. Queste sono tre tavole accoppiate, quando vieni qua le vedi, sono tre tavole accoppiate, capito? Tu lo guardi da sotto, da sotto, da sopra non si discute, ma tu lo guardi da sotto, che non è verniciato, e invece dove sono accoppiate le tavole, e la bordatura, se tu vedi la bordatura c'è un po' essere, questo è un piano di tavolo comprato, che non ce n'è, non ce n'è. Queste sono tre tavole accoppiate dove io ho voluto la base, bordata, lavorata, verniciata in ulivo, come ripiano. E poi lui ha creato questa cosa praticamente a due piedi solo, perché poi è tassellata a muro, capite? Perché io non volevo niente a mettere i piedi, lo metto, l'unica cosa è farla così, perfetto. Ci sono due piedi, intestata e basta, non c'è altro. Tu vedi questa cosa che esce dal muro, una cosa enorme, che ci può camminare sopra, dal peso che c'è, che ha dei piedi in ferro, regolabile, una cosa molto bella da vedere. E l'ha fatta lui, progettata lui, fatta lui. Niente, adesso. Una di questi giorni, se c'erano 5 minuti, mi porti a dare uno sguardo, dai. Non c'è problema, quando vuoi. Quando vuoi, vabbè. Sai che il tempo nostro è sempre tirando, ma già li togliamo 5 minuti. Li togliamo. Così viene a vedere come sono organizzato. Mi manca anche un altro pezzo, Mi manca un altro pezzo della... di questa base. Per poter insomma finire tutto. D'altra parte ci va il computer, ci vanno altre cose, c'è un sacco di portatili che sono così appoggiati, li voglio mettere tutti bene in ordine, sistemare bene, capito? Sì, piano piano, poi una volta che c'è tutta la roba che inizi a pezzo, poi riesci a, alla fine, come ho fatto io, poi trovi la posizione migliore, la più adatta per lavorare, eccetera, eccetera. Anche io qua mi ho messo il televisore, qua c'avevo quello del camper, quello piccolino 15 pollici, quelli LCD, me l'ho messo qua, nella stazione, attaccato all'antenna, quando voi voglio abbagliare la televisione me la abbaglio, vado giù il computerino portatile, mi ho messo una cassettiera vicino dove mi ho messo tutte le cose che mi interessano a me, le riviste, i manuali, eccetera, eccetera. E beh, a proposito del manuale, niente mi dici per me. Aspetta, è venuto proprio in tosse. Vabbè, io andate in carico a Carlo di farmi le copie. Non l'ho più sentito. Bisogna che mi ricordi il telefono e vedere se me li ha preparate. In italiano, Flaming, anche in inglese, ce l'ho in inglese, me lo scaricate da internet, però di qualcosa riesci a capire, ma se riesci a leggerlo bene, dettagliatamente in italiano, è meglio. No, l'italiano è un'altra cosa. L'italiano è un'altra cosa, vabbè. Anche perché riesci a capire le cose, riesci a capire tutto, no? Un'altra guba. No, ma comunque gli altri incarico a lui, io, Già me lo fa, se dovrei vedere il figlio, mi pare la prima settimana di ottobre, già abbiamo la riunione. Lo telefono e vedo un po' se me l'ha fatta, me la facciamo andare dal figlio. Aspetta, facciamo un'altra chiamata sul 10, se nel frattempo è stato qualcuno, adesso alle 10, chi vuole entrare avanti. Riprenditela. Ma se mi ha detto su Pinangelo, lo stesso nome che non lo sentivo, perché la simpatia di Pinangelo è unica, fa piacere sentirlo, eccetera. Speriamo che si ripopoli con la frequenza che ogni tanto tu sempre di meno ne vedo. No, ma io ho fatto anche un paio di telefonate, un giro di telefonate, ieri mi ha chiamato Mauro. È un ragazzo che io conosco da bambino, perché il figlio c'è mia sorella, quindi. Ha cambiato casa, sta al momento organizzando, abbiamo provato già la radio, funziona perfettamente bene. Pinaggio lo stesso l'ha avvisato, eravamo qua, Sandra la stessa cosa, c'è un po' di telefonate li ho fatte, perché ancora non c'è quel freddo pungente che ti costringe a stare a casa, capito? Domani ad Alghero c'è le storie tese, quindi la gente esce, fa, stasera a Portoise c'è festa lo stesso, Piazza Garibaldi, e ancora siamo a fine settembre che non è freddo, d'altronde ci sono, io ho 24 gradi dentro casa, fuori non so quanti gradi ci siano, però ancora non possiamo pretendere di avere la gente fissa al baracchino. Noi che siamo a casa, siamo lavoratori, ci sentiamo la sera, le chiacchie, così e qua, ma per avere un po' di gente bisogna aspettare ancora il prossimo mese. Vedrai che la gente già entra a 4 marci, non c'è problema, e vedrai. Vabbè, piano giusto. C'è ancora, diciamo, la temperatura non è ancora così fredda. Abbiamo perso almeno per un po' Natalino, domani dice che diventa marito anche lui, dell'altra sponda passa. Così almeno mi ha detto, lo dico perché mi ha detto se ci scendeva, dice no, c'ho cose più importanti, sono contento per lui, finalmente anche lui ha trovato la lavoro, diciamo. Già lasciare lì è gay, quindi non può fare niente, devo già mettere in faccia. Anche tu a partire, è gay, voglio per lui. so. L'ho detto che purtroppo non faceva niente di particolare, perché la situazione è quella che è. L'ho detto non ti preoccupare, mi ha fatto piacere, mi hai fatto sapere. E basta, ti hanno tutta la felicità che vuoi. L'importante è tenere tu, tutto quello che dicono gli altri, sono farfalle. Quello che è vero, poi diciamo non è più un ragazzino, per cui sono contento, dai, finalmente poi ha trovato la persona. Ok. Cosa c'è da ridire adesso? Avanti, dai, riprendi tu. Non c'è da dire niente. C'è da dire va bene così. Non problema. Io so anche dove è tutto il tutto, quindi posso anche avvicinarmi, ma non c'è problema. Me l'ha detto. Sono lavoro, quindi non posso assolutamente mancare, anche perché domani mattina devo correre, perché io alle 2 devo essere a Maravella, dovevo prendere 2 della squadra, caricare i palloni, caricare tutto, e alle 3 dobbiamo essere a mancare. Ah, ormai pensavo che sarebbe la mattina, hai visto il bisogno del tempo? Certo, sta guardando altezza dell'onda, 3,53 m, mare agitato, è burrasca domani, mi fa agitato, domani ti lascia il bel Claudio se andate a travagliare, pensa a te. No, io sono entrato venerdì scorso, sabato riposato, domenica sono entrato in turno, domani è sabato e quindi per me è l'ultimo giorno lavorativo domani, poi domenica, lunedì, riposo, martedì vado a vaccinare, sì, martedì devo andare a vaccinare, martedì e venerdì, della prossima settimana però, ma quando vai in burrasca domani? Il picco è domani, domenica leggermente meno, sempre agitato, poi in diminuzione, lunedì e martedì diminuzione, il coso. Però domani il picco del mare è in burrasca domani, non è burrasca, agitato, dai. Però è fastidioso, tanto io non so se naviga con la nave, se ce la fa andare là, cioè ce la fa, a fare ce la fa, però un poco scomodo è a Rivizzi. Io l'ho presa con una bella maestrata, ti dico che la signora nave, non parla molto, l'unico problema che ha con la nave è attaccare la vaginata, non so se ci sia una particolare, c'è praticamente una panchina a punta dove devi andarci molto molto cauto, perché altrimenti ti curi, e quindi l'unico problema lì è l'attacco, perché come navigazione va tranquillamente senza nessun problema. Ma tu prendi quella che apre davanti, che si apre la prua, quella che c'è una specie di passerella davanti? Beh certo, quella lì che porta le macchine, le altre, quella di tutti i passeggeri. Perché prima ce n'era un'altra più piccola, quella già grandetta, c'era una 50 metri, 60 metri, là. Ce n'era qualche anno fa un'altra più piccolina che vedevo che portava, però era tipo un draghetto, era di quelle piatte a fondo piatto, questa ne aguanta un po' di più di male. Però infatti il problema di lì è l'attracco, se c'è corrente te ne butti la panchina, la macchina e il molo. Ma non attracca proprio, non attracca proprio, c'è questo corrente, la porta ha deciso, io ci ho viaggiato tutto l'anno praticamente, ha deciso che quando c'è mare, anche se è poco, quindi il tragitto si può fare, lui non parte perché il vento scarroccia, si chiude la macchina, la sinistra, non si può fare un modo del genere, se no vogliono che attacchi bene la nave, devono fare una bella banchina di quelle larghe e soprattutto che abbia fondale, perché è molto basso lì, capito? È molto basso, più di quello non puoi andare, altrimenti si poteva attraccare di fianco, invece il fondale è molto basso. Non lo so, purtroppo è di lì. Vabbè, già che fu grave se ne andava una nave del genere, perché non è piccolina, prima ci andavano solo le barchette di lì. E io lo so, però già grandetta quella, già grandetta. Poi non c'è nessuna comodità a bordo. Non male Salvador, invece Agatronda, quella era Carroforte la barca, quella della scuderia di Del Giudice, della Vercomar, quindi era, l'hanno tolta la Carroforte, era come Salvador, l'ha fatta vedere anche in televisione e gli se l'hanno buttata a Porto Torres, erano demolite, ma c'erano la veloce stamattina, la sua fede di agenti, capite? Adesso sono le vecchie, si vanno a farsi la termoinchiusa. Prima c'era quella che faceva mandare a Palau. Dimmi una cosa, quanto ci impiega mezz'ora? Dici di mezz'ora ci impiega? Un'ora e 20 ci vuole. Un'ora e allora è lenta, poi per non cambia la mancare luce. Non so quanti voi faccia, comunque secondo me non è lenta, perché è lontano. Vabbè, mezz'ora ho esagerato, dai. Mezz'ora ci vogliono, sono una ventina di miglia, devi fare 20 nodi andare. Diciamo, se ci piega, quanto metto? Un'ora e 20, il cacchio. Ci mette un'ora e 20, va a meno di 10 nodi con la nave. Una cosa del genere. Perché guarda, io col comune da Tentino a Caraveale, cioè da Tentino a Fornelli, ci vuole 25 minuti. Ma per chi c'è davanti? Buonasera. Non so cosa è il microfono, cos'è? Dimmi. Questo tac strano del microfono, come mai fa questo rumore strano? La verità non lo so. Che microfono non ce l'avevi mai, questo rumore tipo tac, sembra che tu devi un ciappotto a uno. Sì, è sempre come di solito, è saletta. Non me l'ho mai accorto. Ciao comunque, avanti qua. Sì, certo, e fatti. No, non li fatti. Non lo sta. Sono più paese che venisce con una ciacchia che lui. Non è solo il rumore del tipo il 60, ma questo è proprio uno fa così. Vabbè, ciao, ancora ben sentito, avanti. Io saluto a tutti comunque ben sentito, non so che ci sia qua, comunque se ci mette un'ora e qualcosa quel traghetto è meglio che fai. Dovrebbe essere il traghetto che fai da Santa Teresa. A poi vi faccio. Che bello è quello il tragitto? Un'ora e mezzo. Un'ora e mezzo. È un tempo buono. Quando c'è tempo brutto che non abbiamo molto peso, perché se ci sono i camion ci mette anche un'ora e mezzo. Capito? Quindi non so quanti milioni sono la produttrice alla girata, lo sai tu, vabbè. Ma io non so che giro fa, ma lui fa il Tintino, gira o va direttamente, dritto. Se va dritto sono una ventina di miglia, 20-23 miglia, una cosa del genere. Sono circa 40 km. Ma dritto, lui c'è la porta e punta la prua verso la girata, perché la girata vi sarà fatta la punta che va a Tintino. E Fornelli, dopo c'è Caravano e la punta poi verso Santa Teresa, quella lì è Caroliva, quindi lui punta dove porta Caravano e costeggia, va costeggiando proprio tutta la zona industriale, fiume Santo, e poi abbraccia direttamente a Tentino, infatti vedi sempre Tentino alla tua sinistra. E poi vedi che si allarga un pochettino perché deve praticamente spostarsi verso Caravano lasciando un po' l'isola piana sulla sinistra. No, non lo fa chi della fanculo. Beh, vale, vuol dire allora andare piano, cosa vuoi ti dica? Comunque ci vuole un'oretta, la Santa Teresa Bonifacio sono 45 minuti, un'ora dai, per scendere tutto un'ora, però sono 10 miglia quelle. Che appunto. Per cui non lo so, sinceramente, vabbè che i traghetti quelli della Santa Teresa Bonifacio sono un po' più veloci, dai, faranno sui 15 nodi, penso. Sì, ma le onde ti prendi, vabbè, cosa è, dai, io l'ho fatto due volte lì con la gita. La prima volta sono andato così, mi sono seduto, non me ne sono accorto la seconda volta, ma al ritorno. Non ti ricordo nulla, se avevo avuto qualche bicchiere in mano di lanciata si avrebbe stato in terra. Per carità, no. Non conviene né a mangiare, dato meno a bere qualcosa, perché sono a vomiti. Non sono fatta. decine e decine di volte, ma sono da un po' di anni che non ci vado, adesso non vado in corso, ho scappato due tre trasportatori, se non mi butti più. Tanti chilometri inutili e ti costate una volta stessa cosa, più ti riguarda tutto lo tragitto da Sassari a Santa Teresa. A quel punto io parto sempre da Porto Torres, 3 ore e mezza di nave, con quelle navi da crociera, con la bicina al vento, cose spettacolari, e arrivi bello e tranquillo. E io l'ho fatto perché altro 2 volte perché sono un paio di cancellistici, però cioè non è andata una cosa, non ho detto, no, se ne parlava un altro, vero me. Perché a parte l'ultimo traghetto alle 5, se non pigli quel traghetto sei fregato, dove dormi? In mezzo alla strada. Non lo so, purtroppo. Io l'ho preso col mare bello, col mare cattivo, col mare burrasca, ma lì oggi mai non mi riesce di luce, guarda, stavo, ho resistito fino all'ultimo secondo. Ho detto, se arriviamo 1 minuto più tardi ne vomito quanto c'è. C'era un secchio vicino dove lavano il ponte con la scoppa lenta, vedevo un visino, ho detto, ho resistito fino alla fine, stavo da un momento all'altro, altra gente come ne uscivano gli occhi. E io non è che lo soffro il male, però purtroppo quando per dire, sei un po' scombussolato, il miglior pescatore di mare, io ho amici che fanno, che stanno settimane in giro in barca, non giorni, settimane, per dire stanno 2 o 3 settimane in mare, pescatori e per gente di pubblica sicurezza, stanno anche 3 settimane a essere toccare terra, dice loro sono abituati, se pure a me mi viene certe volte di uscirmi negli occhi. È un tragitto brutto quello, veramente brutto, che schifo, ti giuro, guarda che è una cosa mai vista. Io mi sono visto, ma tu pigli il piatto la minestra, troppo ti appresso e comincia a fare tanto, sono fatto a destra, sinistra, sinistra, destra. Quando cammini pure la cosa, e nell'androne, sembra che sei cotto tutto bene. Non lo so, purtroppo. E così, il mare è maledetto, non c'è nave che tenga, puoi avere la porta aerea, quando vai a mare è onda grossa. E tu caro temi il mare, nel senso fatico te. E se è una cosa sopportabile, oddio, mi può fare un po' di mal di testa, ma non mi fa ridere. Certo, se il mare è grosso, non so un gruppo di mare io, Io mi ricordo un anno, il mare più brutto, vabbè io le bocche di faccia l'ho trovato il mare, rientrando col gomone, il mare in burrasca, si è alzato il mare, abbiamo fatto 20 miglia col mare in burrasca, era una cosa spaventosa, da arrivare i secchi d'acqua sul gomone, eravamo in 3, mamma mia, poi arrivi quasi a Santa Teresa, manca la benzina, e c'è il serbatoio di scorta, non riuscivo neanche, da onde che c'erano a collegare l'altro serbatoio, ma rimane rimorchiato dentro ogni passata di mare, vabbè già sono cose da me, però il mare più brutto in vita mia io l'ho preso quanti anni fa stiamo parlando, che dovevamo partire per la Corsica, la nave doveva partire alle 3 del pomeriggio e non è partita perché il mare era in burrasca, stavano aspettando che calmasse e siamo partiti all'1 del mattino, si dice ma sempre dentro le cose, questa è una nave grossa, ma non una nave tipo Tirrenia, c'è cioè più grande ancora, quelle grosse che fanno Marsiglia, arrivi da Ghisondanda, ci ha svegliato di soprassalto, io non so che cazzo di mare, perché era il mare proprio burrasca, una cosa mai vista, il comandante, tutti andiamo lo stesso, il comandante ha detto non si può partire, le condizioni del mare sono troppo pericolose, la nave non è sicura, e allora ha fatto il giro dall'altra parte, cioè quando tu vai, come si chiama, anziché partire dritto, diretto, per andare a Genova, non così per la Genova, volevo dire, devi fare il pezzettino dall'altra parte quando c'è il maestrale grosso e passi dall'altra parte della Cusca, ogni mare, quando siamo entrati dentro le bocche di Bonifacio, spaventoso. Ma lì è così, Robè, non è che è così, perché la punta più dove c'è proprio la nelle bocche, quando prendi il mercato in pieno lì non si buffoleggia, non si scherza, comunque io mi ricordo un anno che siamo andati a Genova alla fiera, eravamo in tanti d'inverno perché la fiera di Genova fanno sempre a dicembre e mi ricordo rientrando c'era mare, io camminavo un po' Torellai, c'era mare, gli altri erano Michele, Andrea, Walter, avevo preso tutti una suite enorme, io invece ero a Milano e c'era un mare allucinante, stava piovendo, c'era vento, freddo, proprio tempo brutto. Io sono coricato, mi ha svegliato quella la mattina che eravamo già in porto, quindi forse la tranchetta non ho sentito assolutamente niente. No, noi eravamo facendo ora, cioè nel senso arrivando, noi poi sono partiti alla fine, non ce la facevamo più, siamo andati a dormire verso mezzanotte e mezza. Poi a luna è partita la nave, ci abbiamo sentito, cioè mi è svegliato questa onda mostruosa, figurati questa è una nave grossa. Proprio si è mossa la nave, non so che cazzo di onda poteva essere, perché eravamo all'interno nelle cabine sotto. Perché noi non eravamo neanche in cabina, alla fine ci hanno messo in corso, in cabina, perché c'era troppo disagio per il passeggero, hanno detto vediamo le cabine, cazzo ma che fonda, ci ha svegliato di soprassalto ogni onda, ha detto no, chi? La nave ha fatto, vabbè, c'hanno gli stabilizzatori, già ne hanno cose di sicurezza queste navi, però il problema, c'hanno le casse, come si chiama, casse fonde dove le riempiono d'acqua per stabilizzarla, però il problema quando c'hai quei tir, che la nave è carica di questi tir, basta che se lo vuoi il carico, non so perché si smanda la nave, se non stai attento non è la prima volta che, non dico che si rovesci, ma molto pericoloso, perché la nave basta che si rovesci, si colichi di un paio di gradi, c'è un colpo di vento, arriva un'ondata e si ribalta, è rarissimo, però è successo. Io vabbè, non vedo, non sono tanti che possono fare queste cose, ma le onde che ci sono da Tolosa a Genova non credo che siano così grosse. Comunque il metano è brutto, il levante è brutto, il greccare è brutto e il mare è brutto, bisogna andare sempre lì, io ti ripeto, ogni volta che vado anche a girare e faccio un metro di traghetto, se c'è tempo brutto, che vuole il mare è veramente brutto, tanto non parte. Se parte vuol dire che può affrontarlo il mare. Non mi sono mai preoccupato. Non c'è nessun problema. Quando però vai con la nave grande che vai fuori, purtroppo la nave deve partire. Certo che se c'è mare forte nave non parte, perché non riesce neanche al porto. Non ce la fa uscire dal loro porto. No, se la porta 6-7, sta tranquillo che la linea viaggiano, sono problemi di chi soffre. Già lo so. Ma il problema lo sai, non è tanto prenderlo di prua al mare, ne puoi bigliare anche di 20 metri, il problema sono le onde, quando passi nel pezzo del bocca con il traccio, che l'onda non la infrangi, è tutto un gorgoglio, cioè tutto un movimento di gozo, una cosa, per quello non è che dici prendo l'onda di prua, la infrango, oppure la taglio, e lì è tutto un movimento di come si chiama, non c'è una direzione al mare di lì. Comunque il mare è più brutto, noi tu dici di no, nell'Oceano Atlantico, l'onda più alta misurata, lo sai quella misurata, al largo di Capoccaccia, al largo di Alghero, non so quante miglia, 25 metri di onda, e non so se sai cosa vuol dire 25 metri, ma nell'oceano ne puoi trovare qualche onda, però lo sai qual è il problema, nell'oceano c'è il fondale, trovi anche 2000, 3000, anche di più metri di fondale, nel pezzettino di Gibilterra, di lì arrivano le correnti dell'oceano, entrano di lì dentro, trovano il fondale basso e si formano le onde spaventose. Infatti l'onda più alta misurata, almeno dall'uomo, ce ne sono state più alte, però da satellite fatte così, anche 40 metri ne hanno visto, però l'onda misurata proprio fisicamente l'hanno fatta misurata al largo di Corso, di Alghero, 25 metri di onda. Se tu hai una barca tipo la Tirrenia che è alta 40 metri, già ne intendo il golfo di Romare. Se 40 metri va bene. Ma si passa un giardino, la gatta di corsi, calatore. Un maremoto, non dalle maremoto la caputtata. Ma il mare è micidiale, no? Deve sempre rispettarlo, io l'ho sempre detto. Massima sicurezza a chi non sei in terra, a chi pone i piedi e te ne va in mare, sei in mare. Lo so. Lo so perché io ho fatto il militare marino, lo so. Io ho imbarcato a bordo di Vittorio Veneto, ti sto parlando di 1979, quando è caduto l'aereo a Punta Raisi, è partito Vittorio Veneto, il Garibaldi, la cosa, come cacchio si chiama l'altra, è un attore che aspetta, c'è la fotografia di Marco. L'ho detto. Adesso mi ricordo solo fotografie, comunque anche di quello, per capirti. sì, l'ho visto, ne ha più di uno ne fa da aereo. Ma tu hai sbarcato la Vittorio Veneto qua? Sì, sì. Era la Vittorio Veneto, era la prima ammiraglia, così, non era grande, tipo la Garibaldi. Esatto, non la ammiraglia, la Vittorio Veneto e Garibaldi. Poi siamo andati alla Valarena e da lì ho sbarcato, sono andato alla scuola di sottufficiali della Valarena. E lì mi sono congelato. Dopo il primo bambino ho fatto a Livorno con la Vittorio Veneto. Perché inizialmente volevo rimanere all'Accademia, ma anche perché sono partito prima. E invece poi non mi piaceva la vita militare, quindi ho preferito continuare normale. E allora da normale mi hanno marcato sul Vittorio Veneto. E niente, sono rimasto, io ne ho fatto 24 mesi, Marina. 24 mesi. E quindi da lì poi mi hanno sbarcato la Maddalena. Ma mi ricordo che siamo andati a Palermo a recuperare questa cosa, era allucinante. Non vorrei ricordare neanche oggi che sono passati più di 30 anni. Non lo voglio ricordare perché ne ho avuto una cosa proprio allucinante. Tanto è vero, io mai più sono voluto andare in aereo, però mai più. È capitato però che 2 anni fa sono dovuto andare a Reggio Emilia alla mia figlia perché lavorava lì e purtroppo ho dovuto prendere l'aereo. Ho vissuto quegli attimi dove mi sono ricordato di queste persone che erano chiuse nell'aereo aspettato, che volevano ad aiutarli, e i nostri soprattori nell'elicossuri della Marina, tutti quelli che potevano fare qualcosa, chi rilanciava una cosa, chi rilanciava l'altra, con tutto che non è che c'è questo grande fanale lì, perché è un aeroporto, è una pista di un aeroporto costruita sopra il mare, quindi non capisco come cacchio abbiano consentito a fare una cosa del genere, ma purtroppo tu l'aereo lo vedi, sembra che sta tornando nell'acqua, invece c'è questa pista che tu lo vedi, capito? E io ho vissuto tutti quei momenti, vabbè, e non sono cose belle. E così è l'aeroporto di Genova, in mezzo al mare, mi. Tu che non sei a terra, se sei a terra, se poi di colpo vedi la pista nel coso. Ma è un incrociatore, almeno era un incrociatore la Vittorio Veneto, non è così qua? Sì, sì, c'è due metri Garibaldi. Adesso c'è la Garibaldi, la porta Ricotti, diciamo, la porta aerei, chiamiamo porta aerei. Stanno facendo, non so se l'abbiamo già fatto, c'è anche la Vittorio Veneto, ne hanno fatto un'altra, le due gemelle. Sì, sì, una è porta aerei, l'altra è un incrociatore. Sono belle, sono navi pesanti, grandi, poi enormi. Vittorio Veneto, quanta gente stanno fatta? Almeno 600-700 persone dentro. Ma dell'equipaggio? Sì, di tutto, tra l'equipaggio e tutto. Ma c'erano, sì, 600 persone c'erano tre... sì, erano tre ufficiali di macchine. Tre di coperta, tre di sottocoperta, quindi erano già 6 ufficiali, più tutti i sottufficiali, più i caporali, i sergenti, e mi ricordo bene, ma poi c'è una maglia militare, Vittorio Veneto è stata la numero uno per qualsiasi cosa, in tutto e per tutto, sia nel bene che nel male, è stata sempre da tutte le parti. Lo so. Era la cosa, diciamo, la figlia della Vittorio Veneto ai tempi di quando eravamo in guerra, che poi non so che fine aveva fatto, chissà, no, forse l'avevano affondata a Taranto, l'inglese mi sembra, era la nostra ammiraglia durante la guerra, la seconda guerra mondiale, cioè era stata l'inglese che aveva affondato tutta la flotta italiana. Sì, tu hai conosciuto la nave Roma? Come, scusa? La nave Roma? L'hai conosciuta? Dice che non riescono a trovarla, sì, è a largo di Coso, della Sardegna, diciamo, della Gina, del Golfo della Gina, però non si capisce esattamente dove la devono ritrovare, stanno facendo le ispezioni adesso, dei sondaggi. Mi pare che però sia già risultato qualcosa, un'ottantina di metri di fondale. 80-90 metri fa marce, hanno già avvistato, infatti ci sta lavorando quella, non so se l'hai vista, quella tiracavi inglese, quella che sta facendo il nuovo cavirotto subacqueo, sottomarino, da quella parte dalla che arriva sia l'Argentino. Ci sono fattori sotto che posizionano i cavi nelle selle e poi abbiamo visto qualcosa del genere, infatti hanno già posizionato le boe. Io credo che a tempo buono inizino già a sondare qualcosa. Infatti, perché dice i dati che avevano detto dell'epoca non corrispondono alla realtà, perché ci sono state delle correnti, forse quando l'avevano spostata questa, quella era corazzata, era non so quanti metri, era roba di 200 metri di largo, una cosa enorme, non so quanta niente in busta, ci saranno ancora i resti dei poveri marinai. Quella era la marina, quella grandissima, la nave Roma. Quella mi pare è stata fatta a Genova, a Viareggio, mi pare è stata costruita. No, non lo so, non ho idea, però ho visto le fotografie, era una nave allucinante. Vabbè, io devo interrompere, mi hanno chiamato dentro, difficilmente dopo rientro, ti saluto, vai, se sei in zona, domani tanto una giornata, passa, e già sei dove sono. Ci sentiamo, ciao, grazie per la chiacchierata, saluto Antonio se c'è ancora e tutti gli eventuali amici in ascolto. Ciao ciao, cuoretti da parte mia. Ciao, vabbè, ci sentiamo domani. Ciao, vabbè, vedi se ce la faccio, già passa tra parte, Vabbè, Clark, come va? Come va? Tutto arromadiato sono. Tutto arromadiato, ho preso sciroppo adesso. Dopo 10:30, dopo tornare a fine lavoro, torno a Pastiglia e metto in gocco. Perché devo riprendermi più fretta possibile, domani c'è un sacco di cose da fare. Non sto fumando niente, sono ancora tossisco. Mi fa lavare tutta la grossa. La parola, la parte di freddo che hai preso, il discorso è quello. Se ti fate comunque non preoccupate per quello, non è niente. Infatti erano i muri bene male. Oh, sto provando la testa unica, lo uscirò. Altre cose non mi ha dato perché mi metto a non fumare, infatti non sto fumando da ieri, non me la fa tenuta, bisogna anche mettersi un po' a posto, ma non ho niente di lavoro, non mi fa male, nulla, sono un po' di tosse, quando passano il raffreddore ti rimane la tosse e quindi va un po' crepato. Già va bene, piano piano già passa, cosa ci vuole fare? Ah beh, quello sì, se fatto fatto cosa scusa si è pregato. Tutte le cose vanno a fare il suo corso, se no non passa, non passa, non te bigli i bacchini, no a bui, non fa nulla. Io sono tre giorni che sto facendo un paio di lavori, grazie a Dio, e mi sento bene, ho detto, lavorando passa tutto, passa la voglia, passa tutto la depressione, quello che è, quindi sto bene. Questa cosa di Daniele, facevo un lavoro vicino a casa sua, e quindi... Adesso devo fargli l'ultima di lavoro lunedì mattina, se non piove. Ma non è chi come la metropolitana? Sì, i cancelli sono che ho fatto, piazzati, pellicciati. Adesso devo fare l'ultima di resto della roba e basta. Cosa devi fare un impresario? Ah? Cosa devi fare un impresario? Non è male. Oh. no, no, non sto facendo i capelli, no. Sì. Cioè, il capocondome no, mi abbiamo messo delle cose, il fotocellulare nuove, la lampada, avevo i cancelli, poi li ho cominciati l'altro giorno, tutti e due, sia uno sia l'altro, siccome era un casino, era. Entravamo tutti, quindi adesso abbiamo messo le chiavi nuove, quindi entrano in tutti. E poi abbiamo messo la vetta, perché se no, per noi abbiamo messo non pagare più un cancello come si deve, come prima, che prima aveva manovretta, ci vuole il cancello con la vetta, se no si è fregato, non è la norma. Fino a che anche dove c'era lui, dove c'è più giù, quindi quella via lo sa che è una via come si dice, private, quindi c'è una strada che faceva dall'altra, abbiamo fatto un primo luogo e poi l'altro. No, ho capito, sì, infatti non ho fatto ci vado dall'altro, non ho fatto uno strada, lei sa dietro, non abbiamo che fare con lei. Stesse facendo altre cose, siccome diciamo i talù, il cazzo sono buco nel cielo, il cazzo le faccio male, non c'è l'altro. Va bene, a te, 10:10 sono, io spengo tutto. Ti saluto, guardi, le due chiacchiere, vado a prendere la pastiglia e poi me la vado a andare domani. Abbiamo ancora una mattinata da fare. Mattinata, pomeriggio, e non più così fa domani. Povero me, cazzo. Mi paghi domani, bisogna che mi venga e io sia appassionata. Tu metti il bracchetto, ma dopo ti dico io. Un euro da 5 centesimi costa poco, mi dà cosa. La dico. Ma che buono, la verità, sì. Leggero, leggero, leggero. Siete quello, va bene, mira, vedo quello che dice, non ti fa proprio niente, è bello tranquillo. Bene, bello tranquillo. Non è per dimenticare la roba, non ti dimentichi i buzzi. Ciao, buonanotte. Sì, bene, bene, basta. No, domani devo prima lavorare, quindi domani sera vediamo com'è la situazione. Ci abbiamo tutta partita bancaria. Vediamo dopo partita se si riesce a combinare qualcosa, magari. Penso che mi passino tutti i dolori, se no. Si rabbia gli occhi. Va bene. Ok, vai, ciao, te lo farò, te lo prossimi e ci sentiamo domani. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mi raccomando, non fate la voce, non sei fregato quando giochi a pallone. Quindi ti come piatti un giubbotto, un cappotto di come pigliati. Con la plastica, allora la roba così tranquillo, quando tutto può finire di giocare. Ciao, ci sentiamo domani sera, arrivederci. Ma non ti buon tutto. E ciao, ciao, ciao, ciao, domani. E ciao, ciao.